Io non ci credo personalmente, questa naturalmente è una mia opinione, ma insomma credo di poter interpretare l'opinione di tutti. Non credo che si arriverà veramente allo scenario di disastro, cioè del dissolvimento completo dell'euro, perché questo sarebbe un disastro per tutti, non solo per le nazioni più povere dell'area euro. Se non altro perché immagini lei i costi straordinari che ci dovrebbero essere per ritornare alle monete, sistemi informatici, sistemi contabili, sistemi fiscali. Cioè, mi sembra che sia uno scenario questo così ultimo veramente molto molto improbabile, perché secondo me non è nell'interesse di nessuno. Questa settimana è considerata da molti osservatori cruciale per il governo e più in generale per l'economia italiana. Mario Monti si è recato martedì a Bruxelles alle riunioni di Eurogruppo ed Ecofin per illustrare le linee della complessa manovra anticrisi. Una volta rientrato a Roma, Monti avvierà una serie di incontri con i leader dei partiti italiani in vista del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre, che dovrebbe svelare le principali misure del pacchetto anticrisi per un valore complessivo di 15, 20, forse 25 miliardi di euro. Sentiamo il racconto che ci ha fatto martedì sera Antonio Poglio Salimbeni, inviato a Bruxelles per Radio Cori e Le Sole 24 Ore, sul giudizio e sulle richieste dell'Unione Europea. Gli incontri bilaterali sono già avvenuti, Monti si è incontrato con il suo collega delle finanze francesi Barroin e si è incontrato anche con il presidente dell'Eurogruppo Juncker. In effetti la riunione dell'Eurogruppo è già cominciata ed è in questa sede che il commissario agli affari economici Olli Rehn presenta il rapporto sull'Italia, il primo dopo il lavoro della missione europea, della Commissione della Banca Centrale Europea a Roma e dopo gli incontri personali della scorsa settimana di Olli Rehn con Monti ed altri ministri economici del nuovo governo italiano. In sostanza il giudizio della Commissione europea è positivo sulle mosse compiute dall'Italia e si chiedono una serie di misure ulteriori sia per garantire effettivamente che sarà raggiunto il pareggio di bilancio nel 2013, in particolare per il 2012, per l'anno prossimo si chiede di colmare la differenza tra le stime della Commissione europea di deficit in rapporto al PIL collocate al 2,3%, mentre le previsioni italiane parlano di 1,6%. Quindi si tratta di rastrellare per l'anno prossimo circa 11.500 miliardi. D'altra parte il governo si appresta appunto a varare una manovra che sarà più sostanziosa, corrisponderebbe all'1,5% del prodotto lordo. E poi Bruxelles chiede una serie di approfondimenti, misure più ambiziose sul mercato del lavoro, sulle pensioni, sulla concorrenza nel settore dei servizi, delle libere professioni e così via. Le stime sul capitale delle banche, fra cui quelle italiane calcolate dall'autorità bancaria europea, l'EBA, slittano a dopo il 5 dicembre. Lo hanno riferito fonti comunitarie già da martedì. Per le banche italiane l'EBA aveva stabilito dei criteri particolarmente penalizzanti. Sentiamo sempre Antonio Poglio Salimbeni. Le nuove stime aggiornate dall'ente bancario, dall'autorità bancaria europea sulle esigenze di ricapitalizzazione sulla base delle esposizioni al 30 settembre e non alla fine di giugno come le precedenti di un paio di mesi fa, saranno portate stasera dal presidente André Enria all'Eurogruppo e domani all'Ecofin. Si tratta di un'azione che riguarda le banche europee dei 27 paesi, non soltanto dell'Eurozona. L'EBA ha indicato oggi che questo delle ricapitalizzazioni è soltanto un elemento di un pacchetto più complessivo, di cui fanno parte naturalmente il rafforzamento del fondo salva stati e le garanzie bancarie, le garanzie pubbliche al finanziamento delle banche di medio e lungo termine, cioè tutto il finanziamento che non riguarda le ricapitalizzazioni a breve. gli elementi di questo pacchetto non sono ancora chiusi, quindi fino a quando non saranno chiusi le ricapitalizzazioni non potranno partire. Presumibilmente si può dire, cioè, si capisce che non è, difficilmente saranno pubblicate domani, ma nel giro di qualche giorno, se la discussione andrà in un senso positivo. Nulla fa pensare che non vada in un senso positivo, anche perché ci si rende conto qui a Bruxelles che l'impatto sui mercati di un rinvio effettivo dell'avvio delle ricapitalizzazioni sarebbe un segnale molto negativo, quindi nessuno se la sente di correre il rischio. Un modello federale come quello degli Stati Uniti per il momento in Europa è impensabile. Che invece la Banca Centrale Europea possa diventare prestatore di ultima istanza come la Federal Reserve negli Stati Uniti d'America è una prospettiva che molti analisti stanno prendendo in considerazione nelle ultime settimane. La BCE infatti avrebbe gli strumenti per respingere il pesantissimo attacco ai mercati dell'area euro, sta già acquistando titoli di Stato, ma le risorse non sono illimitate. Si sta ipotizzando da qualche tempo a questa parte che si potrebbe pensare ad una sorta di triangolo Banca Centrale Europea, Fondo Monetario Internazionale, Stati Europei. La BCE potrebbe prestare denaro al Fondo Monetario Internazionale che potrebbe a sua volta convogliarlo ai paesi in difficoltà. Chi potrebbe dare il via libera ad un'operazione di questo tipo? Sentiamo Alessandro Merli, corrispondente da Francoforte del Sole 24 Ore. Non c'è al momento su nessun tavolo l'ipotesi di riformare la Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea ha un mandato ben preciso, diciamo che incardinato nei trattati europei, che è quello di mantenere la stabilità dei prezzi. In questo contesto ha fatto degli interventi limitati e temporanei per cercare di evitare problemi più gravi nell'area dell'euro, li ha fatti prima sui paesi della periferia sud e poi su Italia e Spagna a partire da quest'anno, però chiaramente non sono quelli che possono risolvere i problemi dell'area euro. Quello che ci vorrebbe, naturalmente, invocano alcuni, è una BCE che stampasse moneta, che facesse degli interventi di quantitative easing come fanno altre banche centrali sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna. È un modello che non trova d'accordo tutti, anzi trova moltissimi dissensi all'interno dell'Unione Europea, prima di tutto quello della Germania e della Bundesbank. Io credo che per il momento si procederà con degli interventi più limitati. Hai fatto riferimento a un calendario, beh, il primo appuntamento è quello dell'8 di dicembre, c'è la prossima riunione del Consiglio della BCE e credo che lì verranno prese alcune misure. Anzitutto io credo che la BCE taglierà di nuovo i tassi, lo ha fatto a novembre all'esordio di Mario Draghi alla presidenza e credo che lo farà ancora a dicembre, non è chiaro se 25 o 50 punti base, questo in qualche modo abbassa il costo del denaro e quindi dovrebbe favorire un'economia che sta boccheggiando, diciamo un'economia che è già praticamente in recessione. Questa è la prima misura. Le altre due misure sono rivolte a favore delle banche che sono in gravissime difficoltà a trovare fondi sui mercati dei capitali, lo ha sottolineato lo stesso Draghi. Queste due misure sono una probabile estensione di forniture di liquidità alle banche anche per due o addirittura per tre anni e l'altra concedere alle banche di consegnare alla BCE in cambio di questi finanziamenti una gamma di collaterale, quindi di titoli diciamo più allargata rispetto a quella che le banche possono consegnare adesso, perché alcune banche sono in difficoltà, non hanno più la carta, diciamo i titoli giusti da consegnare alla BCE. Come collaterale, infatti. Questo, ecco, è una prima serie di interventi. Io credo che dopo si dovrà aspettare le decisioni del vertice europeo del 9 di dicembre, vedere se effettivamente si fanno dei passi avanti sulla governance europea, passi avanti che vorranno dire probabilmente regole di bilancio più strette, sorveglianza molto severa anche da parte delle autorità europee sui paesi che non rispettano questi obiettivi ed eventuali sanzioni contro quelli che sgarrano. A questo punto, una volta diciamo messo assieme questo assetto, comunque avviato questo processo, la BCE potrebbe essere convinta a fare degli interventi più massicci sui mercati oppure, come qualcuno dice, fissare in qualche modo dei tetti ai rendimenti dei titoli di Stato dei paesi più in difficoltà, si è parlato per esempio del 5%, la banca centrale decide che i rendimenti non devono superare un certo livello, diciamo che se fosse il 5% nel caso dell'Italia, i rendimenti al momento sono attorno al 7%, la Banca Centrale Europea dovrebbe comprare o comunque prima di tutto dovrebbe annunciare che non consentirà che questi rendimenti superino il 5%. Io credo che già con questo effetto di annuncio probabilmente il mercato farebbe per la BCE una parte del suo lavoro, cioè il mercato, sapendo che c'è la BCE pronta a difendere questo obiettivo, probabilmente comincerebbe ad adeguarsi da solo e poi la BCE dovrebbe comprare titoli molto più di quanto non stia facendo adesso. Noi sappiamo, anche se non è mai stato annunciato ufficialmente, che c'è un limite che può essere modificato di circa 20 miliardi di euro la settimana. Sappiamo che la settimana scorsa la BCE è intervenuta per 8 miliardi, quindi ci sono dei margini ancora, anche dentro le regole attuali, abbastanza ampi perché la BCE possa intervenire. E per questa settimana con Economia in Europa è tutto. Economia in Europa, in collaborazione con Euronet.